Cornelia arrivò e chiese ad Anna di accompagnarla a casa di Mr. Chase. Vado giù per chiedere a Richard Chase un contributo per la stufa della nuova cucina della chiesa. Vuoi venire con me, tesoro mio? Mi serve un sostegno morale. Odio andare da sola da lui. Trovarono Mr. Chase in piedi sui gradini dell'ingresso. Sembrava, con le sue lunghe gambe e il suo lungo naso un po' come una gru in meditazione. Aveva alcune lucenti ciocche di capelli spazzolate sulla cima della testa pelata e i piccoli occhi grigi brillarono nel vederle arrivare. Pensò che se per caso quella con la vecchia Cornelia era la moglie del dottore, aveva un gran bell'aspetto. Quanto alla cugina Cornelia, cugina diversa di due generazioni, era un po' troppo robusta e aveva altrettanto intelletto quanto una cavalletta. Ma non era cattiva la vecchia gatta, naturalmente bisognava sempre lisciarla dalla parte giusta. Le invitò cortesemente ad entrare nella sua piccola biblioteca, dove Miss Cornelia, con un sommesso borbottio, si accomodò su una sedia. È terribilmente caldo stasera. Ho paura che avremo un temporale. Dio ci aiuti, Richard. Quel gatto è sempre più grande. Richard Chase aveva un famiglio nella forma di un gatto giallo di dimensioni abnormi, che ora si era arrampicato sulle sue ginocchia e che lui accarezzava teneramente. Thomas, il rimatore, dà al mondo la certezza di un gatto, disse. Non è vero, Thomas? Guarda tua zia Cornelia, rimatore. Osserva i minacciosi sguardi che ti lancia da quelle sfere create per esprimere solo gentilezza e affetto. Non definirmi la zia di quella bestia, protestò Mrs. Elliot bruscamente. Uno scherzo è uno scherzo, ma questo è esagerare. Non vorresti essere la zia di rimatore, piuttosto che la zia di Neddy Churchill? Domandò lamentoso Richard Chase. Neddy è un mangione e un ubriacone, giusto? Ti ho sentita fare il catalogo dei suoi peccati. Non vuoi piuttosto essere la zia di un bel gatto per bene come Thomas, con un impeccabile passato riguardo ad alcolici e gattine? Povero Ned. È un essere umano, ribatté Miss Cornelia. Non mi piacciono i gatti. Questo è l'unico difetto che trovo in Holden Churchill. Ha una strana passione per i gatti. Ah, solo Dio sa da dove è venuto fuori. Sia suo padre che la madre li detestavano. Quale assennato giovane uomo deve essere? Assennato, beh, è abbastanza assennato tranne in materia di gatti. Eh sì, la passione per l'evoluzionismo, altra cosa che non ha ereditato da sua madre. Sai, Mrs. Elliot, affermò solennemente Richard Chase, ho una segreta propensione all'evoluzione anch'io. Me lo avevi già detto. Beh, credi a quello che vuoi, Dick Chase, tipico di un uomo. Beh, grazie al cielo, nessuno potrà mai farmi credere che io discendo da una scimmia. Tu non lo dimostri, lo confesso. Sei una donna così avvenente. Non vedo somiglianze con una scimmia nella tua rosea, tranquilla e assolutamente graziosa fisionomia. Tuttavia, una tua bisnonna, 1 milione di generazioni fa, dondolava da un ramo all'altro con la sua coda. La scienza lo dimostra, Cornelia, prendere o lasciare. Oh, io lascio allora. Non ho intenzione di discutere con te su questo o qualsiasi altra cosa. Io ho la mia religione, dove non figurano scimmie come antenati. Tra l'altro, Richard, quest'estate non vedo molto bene Stella, come invece mi piacerebbe. Oh, soffre sempre quando c'è molto caldo. Si riprenderà quando arriverà il fresco. Spero che sia così. Lisetta ha sempre recuperato tutte le estati, ma l'ultima, Richard, non te ne dimenticare. Stella ha la costituzione di sua madre, è una fortuna che probabilmente non si sposerà. E perché probabilmente non si sposerà? Lo chiedo per curiosità, Cornelia, vera e propria curiosità. I processi del pensiero femminile sono profondamente interessanti per me. Da quale premessa o dati trai la conclusione, con quella tua deliziosa disinvolta maniera, che Stella probabilmente non si sposerà? Beh, Richard, per dirla chiara, non è il tipo di ragazza che è molto popolare con gli uomini, è una buona e dolce ragazza, ma non è attratta dagli uomini. Oh, di ammiratori ne ha avuti, sai? Ho speso gran parte delle mie sostanze per l'acquisto e la manutenzione di fucili da caccia e bulldog. Ammirerebbero il tuo denaro, suppongo. Mi sbaglio o si scoraggiarono subito? Basta solo una bordata del tuo sarcasmo e se ne vanno. Se avessero veramente voluto Stella, non si sarebbero scoraggiati né per quello né per il tuo immaginario bulldog. No, no, Richard. Devi ammettere che Stella non è una ragazza circondata da un nugolo di ammiratori. È stato lo stesso con Lisette. Non ha mai avuto uno spasimante finché non sei arrivato tu. Ma non valeva la pena aspettare per avere me? Lisette era una ragazza molto saggia. Non vorrai che io dia mia figlia a un qualsiasi Tom, Dick o Harry, vero? La mia Stella, a dispetto delle tue denigratorie osservazioni, è più che adatta a brillare nei palazzi dei re. Non abbiamo re in Canada, ribatté Miss Cornelia. Non sto dicendo che Stella non è una bella ragazza. Dico solo che gli uomini non sembrano accorgersene e, considerando la sua costituzione, penso proprio che sia meglio così. Ed è una fortuna, anche per te. Tu non potresti mai andare avanti senza di lei. Saresti impotente come un bambino. Beh, prometteci un contributo per la cucina della chiesa e ce ne andiamo. So che muori dalla voglia di prendere qualche libro dei tuoi e metterti a leggere. Oh, ammirevole donna chiaroveggente. Che tesoro che sei per una cugina acquisita. Lo ammetto, sto morendo, ma nessun altro oltre a te sarebbe stato perspicace abbastanza per vederlo. O amabile abbastanza per salvare la mia vita agendo di conseguenza. Di quanto mi vuoi derubare? Puoi offrire 5 dollari. Oh, non ho mai fatto discussioni con una signora. 5 dollari siano. Ah, andate via? Ma questa donna è unica, non perde mai tempo. Una volta che ha raggiunto il suo obiettivo, se ne va subito, lasciandoti in pace. Donne come lei oramai non ce ne sono più. Buonasera, perla di parente acquisita. Durante tutta la visita Anna non aveva pronunciato una sola parola. Perché avrebbe dovuto se il suo lavoro lo stava facendo Mrs. Elliot così abilmente e inconsciamente? Nel mentre Richard Chase le stava salutando, improvvisamente si sporse in avanti in modo confidenziale. Tu hai la più bella coppia di caviglie che io abbia mai visto, Mrs. Blythe, e ti assicuro che ne ho viste molte ai miei tempi. Non è terribile? Ansimò Miss Cornelia mentre andavano giù per il sentiero. Ha sempre detto delle cose scandalose, come quella, riferendosi alle donne. Oh, non fartene un problema, Anna, tesoro mio piccolo. Anna non se lo fece. Lei trovava piuttosto simpatico, Richard Chase. Non credo, rifletté, che a lui piaccia molto l'idea che Stella non desti ammirazione tra gli uomini, nonostante il fatto che i loro antenati erano scimmie. Penso che gli piaccia esibire agli altri, in fondo, la sua figlioletta. Beh, io ho fatto tutto quello che potevo fare. Ho creato interesse tra Holden e Stella e tra me e Miss Cornelia abbiamo contribuito, credo, a che Mrs. Churchill e Mr. Chase siano a favore del matrimonio piuttosto che contro. Ora devo solo aspettare pazientemente e vedere cosa ne viene fuori. Un mese più tardi, Stella Chase arrivò a Ingleside e nuovamente sedette con Anna sui gradini della veranda, pensando a come fare per essere come lei, sperando un giorno di apparire come Mrs. Blythe, con quello sguardo maturo, lo sguardo di una donna che ha vissuto pienamente ma con garbo. Era una sera di un prematuro settembre, fresca e color fumo. Tutto era pervaso da un delicato lamento del mare. Il mare questa sera è infelice, era solito dire Walter quando sentiva quel suono. Stella sembrava distratta e silenziosa, ma bruscamente, guardando la magia delle stelle che si intessevano nella sera purpurea, disse: Mrs. Blythe, voglio dirle una cosa. Sì, cara. Sono impegnata con Holden Churchill, disse Stella disperatamente. Siamo impegnati fin dal Natale scorso. Lo abbiamo subito detto a mio padre e a Mrs. Churchill, ma lo abbiamo tenuto segreto a tutti gli altri solo perché era così dolce avere un tale segreto. Detestavamo condividerlo con il mondo. Ci sposeremo il mese prossimo. Anna stava imitando in modo eccellente la statua di pietra di una donna. Stella stava ancora guardando le stelle e non vide quell'espressione sul volto di Anna, e così andò avanti un po' più facilmente. Holden ed io ci siamo conosciuti ad una festa a Lowbridge lo scorso novembre. Noi ci siamo amati, siamo stati bene insieme fin dal primo momento. Disse che mi aveva sempre desiderata, mi aveva sempre cercata e lui si è detto: ecco mia moglie, quando mi vide apparire sulla porta. E io provavo la medesima cosa. Oh, siamo così felici, Mrs. Blythe. E ancora Anna continuava a non dire niente. La sola nube sulla mia felicità è il suo atteggiamento sulla questione, Mrs. Blythe. Non potrebbe fare un tentativo per approvarlo? Lei è stata una così cara amica per me. Da quando sono arrivata a Glen St. Mary, sentivo come se lei fosse una sorella maggiore e mi sento così male se penso che il mio matrimonio non va d'accordo con la sua volontà. Sentendo il suono delle lacrime nella voce di Stella, Anna recuperò la facoltà della parola. Carissima, no, no, la tua felicità è tutto quello che ho sempre voluto. Mi piace Holden, è un uomo splendido, solo aveva la reputazione di essere un tipo volubile. Ma non lo è. Stava solo cercando la persona giusta. Capisce, Mrs. Blythe? E non riusciva a trovarla. E cosa pensa tuo padre a riguardo? Oh, papà è molto soddisfatto. Ha accettato Holden fin dall'inizio. Amano discutere per ore dell'evoluzione. Papà diceva sempre che avrebbe lasciato che mi sposassi quando fosse arrivato l'uomo giusto. Mi sento terribilmente male nel lasciarlo, ma lui dice che gli uccelli giovani hanno diritto al loro nido. La cugina Delia Chase verrà a occuparsi della casa e mio padre è contento. E la madre di Holden? Beh, lei è piuttosto ben disposta. Quando Holden lo scorso Natale le disse che eravamo fidanzati, prese la Bibbia e il primo versetto che trovò era: l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie. Disse che era perfettamente chiaro allora che cosa doveva fare e acconsentì subito. Va ad abitare in quella sua piccola casa a Low Bridge. Sono contenta che non dovrai vivere con quel divano verde felpa, disse Anna. Il divano? Oh, sì, l'arredo è parecchio vecchio stile, non è vero? Ma se lo porta con sé e Holden sta per ammobiliare la casa completamente. Vede dunque, sono tutti contenti, Mrs. Blythe. Non vuole darci anche lei il suo augurio e la sua benedizione? Anna si sporse in avanti e baciò la fresca e setosa guancia di Stella. Sono molto contenta per te. Che Dio benedica tutti i tuoi giorni a venire, mia cara. Quando Stella se ne fu andata, Anna salì velocemente nella sua stanza per evitare di vedere qualcuno in quell'istante. Una cinica, sbilenca vecchia luna stava uscendo da dietro alcune ruvide nubi a est e i campi più oltre sembravano guardarla sornioni e maliziosi. Fece il punto di tutte le settimane precedenti. Aveva rovinato il tappeto della sala da pranzo, distrutto due cimeli preziosi e rovinato il soffitto della sua biblioteca. Aveva cercato di utilizzare Mrs. Churchill come uno strumento, invece lei avrà riso di nascosto tutto il tempo. Chi? Chiese Anna alla luna. Si è dimostrato il più sciocco di chiunque altro in questa vicenda. So quale sarà l'opinione di Gilbert, naturalmente. Tutta la fatica sprecata per realizzare un matrimonio tra due persone che erano già fidanzate. Allora sono guarita dal cercare di sposare le persone, assolutamente guarita. Mai più alzerò un dito per promuovere un matrimonio, anche se non ci sarà più nessuno al mondo che si vorrà sposare. Beh, una consolazione c'è. Jane Pringle nella lettera di oggi dice che sta per sposare Lewis Stedman, che ha incontrato alla mia festa. I candelieri di Bristol non sono stati sacrificati, dopo tutto, invano. Ragazzi, ragazzi, dovete proprio fare quel genere di rumori innaturali laggiù? Siamo gufi. Dobbiamo bubolare, proclamò la voce offesa di Jem nel buio del boschetto. Sapeva che stava facendo un'ottima imitazione del verso dei gufi. Jem poteva imitare il verso di ogni piccola cosa selvatica dei boschi. Walter non era così bravo e lui al momento aveva smesso di essere un gufo ed era diventato un piccolo ragazzo piuttosto deluso. Si arrampicò sulla mamma per cercare conforto. Mamma, pensavo che i grilli cantassero e Mr. Carter Flagg oggi ha detto di no, soltanto fanno quel rumore raschiando le loro zampe posteriori. È vero, mamma? Eh sì, qualcosa del genere. Non so esattamente come, ma questo è il loro modo di cantare, lo sai? Non mi piace, non mi piacerà più sentirli cantare. Oh sì, vedrai, ti dimenticherai delle zampe posteriori col tempo e ovunque penserai solo ai loro magici cori, campi, prati e colline autunnali. Non è il momento di coricarsi, figliuolo? Mamma, mi puoi raccontare una storia che mi dia un brivido di paura? E poi starai seduta accanto a me fino a quando non mi sarò addormentato? E per cos'altro ci sono le mamme, tesoro mio?